12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi andiamo alla scoperta della professione del veterinario. Proveremo a capire di che cosa si occupa esattamente e qual è il percorso formativo che bisogna intraprendere per fare poi questo mestiere. Inoltre cercheremo di scoprire come poter iniziare questa carriera insieme alla dottoressa Francesca Venier. Probabilmente nell'immaginario comune il veterinario è semplicemente il medico da cui portiamo i nostri animali da compagnia quando non stanno bene, ma facendo una piccola ricerca abbiamo scoperto che fare il veterinario non vuol dire occuparsi solo di questo. Gli sbocchi professionali possono essere infatti molteplici e, oltre alla grande distinzione tra veterinari che si occupano di animali da allevamento e veterinari che si occupano di animali da compagnia, troviamo possibilità di impiego nelle industrie di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti di origine animale, nelle aziende chimiche e farmaceutiche, nel settore dell'acquacoltura e negli allevamenti zootecnici, dove la figura del veterinario potrebbe occuparsi di aspetti più manageriali, come riduzione dei costi di produzione a fronte di un aumento di qualità dei prodotti. Cercando informazioni in merito a qual è il percorso formativo da frequentare per intraprendere questa carriera, abbiamo trovato che è necessaria senza dubbio una laurea in medicina veterinaria, che si divide negli indirizzi clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, biopatologico generale e sperimentale. Ma non basta solo la laurea, infatti per l'esercizio della professione è necessario superare l'esame di Stato per l'abilitazione professionale e iscriversi all'albo dell'Ordine dei Veterinari. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver dato qualche informazione generale, cerchiamo di capire di più cosa significa svolgere la professione di veterinario insieme alla nostra ospite, dottoressa Francesca Venier. Dottoressa Venier, benvenuta a 12 minuti. Grazie. Dottoressa, ci può raccontare innanzitutto di che cosa si occupa e che cosa vuol dire essere un veterinario? Allora, io mi occupo principalmente dell'attività clinica dei piccoli animali, quindi cane e gatto. E riguardo a una cosa significa essere veterinario, diciamo che è una professione che ha moltissime sfaccettature. E io mi sono interessata fin da subito all'attività clinica, quindi proprio alla, a quello che è l'attività di visita degli animali e poi delle loro successive cure. Però in realtà essere veterinario significa anche occuparsi di altri campi, che possono essere dagli grossi animali, quindi gli allevamenti, anche alla sanità degli alimenti, quindi vigilanza all'interno delle industrie alimentari, sia in ambito pubblico, di sanità pubblica, che in sanità privata, come anche ovviamente nell'ambito della ricerca. Ecco, il lavoro in clinica, no, di cui appunto lei si occupa, al di là, no, nell'immaginario comune, ecco, appunto il veterinario, quello da cui noi magari portiamo appunto il nostro cane, il nostro gatto. Ecco, poi l'attività concreta che si svolge appunto in un ambiente come questo, qual è? Ma allora, diciamo che bene, è né più né meno quello che, volendo, alla lontana potrebbe essere l'attività di un ospedale, cioè vale a dire che quando ci viene portato un cane o un gatto che presenta delle problematiche, deve essere svolta una visita clinica approfondita in modo da riuscire a capire esattamente che cosa, che processo si stia svolgendo. Dopodiché eventualmente devono essere svolti degli approfondimenti, degli esami, che non sono né più né meno che quelli che vengono svolti anche poi in medicina umana, quindi prelievi del sangue piuttosto che radiografie, piuttosto che ecografie, per arrivare poi a una diagnosi e in base alla diagnosi impostare una terapia. Ecco, dottoressa, a livello poi di formazione, qual è stato il suo percorso e qual è comunque, ecco, il percorso che un giovane che volesse intraprendere questa carriera deve percorrere? Beh, allora, il percorso formativo, al di là degli studi superiori, prevede 5 anni di università. Quindi la facoltà di medicina veterinaria non è divisa come altre facoltà nel 3+2, ma sono 5 anni, e alla fine dei 5 anni uno diventa riceve la laurea di medico veterinario, dopodiché deve superare un esame di stato per essere iscritto all'ordine dei veterinari. Con questa iscrizione può poi esercitare la sua professione. Ecco, dottoressa, una specifica: già durante la laurea, quindi il percorso universitario, lei prima parlava appunto di veterinario con piccoli animali, veterinario oppure con animali d'allevamento, oppure appunto di all'interno di vigilanza per quanto riguarda l'alimentazione, cose di questo tipo. Già durante l'università appunto c'è una specifica, cioè si sceglie già un percorso, o è una cosa che avviene dopo? Allora, diciamo che io mi sono laureata 3 anni fa a Padova e in quel momento il corso di studi non prevedeva nessun percorso specialistico, cioè 5 anni erano uguali per tutti gli studenti di veterinaria, qualunque fosse poi la loro aspirazione nel post laurea. In realtà adesso stanno un po' modificando le cose, so che a Padova stanno cercando di dividere i rami tra la parte clinica piuttosto che la parte di igiene degli alimenti e di sanità pubblica, però per il momento è ancora un percorso unico. Ecco, quindi le specializzazioni si fanno successivamente. Ho capito. Dottoressa, ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi ritorniamo qui appunto e continuiamo a scoprire il lavoro del veterinario. Ci sono cose che ci prendono e non ci fanno dormire. Well, I find some peace today. What can I tell myself? Pensieri che nascono liberi come rondini in aprile. Will the clouds are far away? When can I see the last? Ci sono occhi che tagliano il silenzio e mi piace parlarti di me. Davanti a un bicchiere di rosso, col sorriso più bello che c'è, non ti preoccupare. You have nothing more to lose. E che va tutto bene. Anche se a volte sono fuori di me, dimenticando i giorni che stiamo soli, ma non si torna indietro. When driven through the rain. Da qui si sente l'Africa, mentre il mare abbraccia la città. And the people that we meet by chance while waiting for the train. Ah, in questo mare naviga la speranza e il mondo che verrà. Ma non si torna indietro. Ma non si torna. Ormai ci sono cose che ci lasciano un segno evidente. Can the winds of time delay when free from broken glass? Persone che incontri per caso e poi restano per sempre. Will the words of hate decay to let the past be past? Ci sono occhi che tagliano il silenzio. E mi piace parlarti di me. Davanti a un bicchiere di rosso, col sorriso più bello che c'è, non ti preoccupare. You have nothing more to lose. Perché va tutto bene. Anche se a volte sono fuori di me, dimenticando i giorni che siamo soli, ma non si torna indietro. Non si torna indietro, ma non si torna indietro. Torna indietro. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo andando alla scoperta del lavoro del veterinario e nella prima parte della puntata la dottoressa Francesca Venier ci ha raccontato la sua esperienza in questo campo e abbiamo parlato anche di qual è il percorso formativo da intraprendere. Dottoressa, dagli studi all'esercizio della professione, quali sono i passi da intraprendere e quali sono secondo lei le possibilità per un giovane di accedere a questo mestiere? Ma allora, diciamo che appunto, dopo aver sostenuto l'esame di Stato, un veterinario è già abilitato a esercitare, cioè non è previsto dopo la laurea un'ulteriore scuola di specializzazione come ad esempio in medicina. E diciamo che l'università, per quanto riguarda almeno la clinica, la parte clinica di cui io mi occupo, non fornisce secondo me grosse basi di pratica, cioè nel senso teoria ovviamente quanto se ne vuole. Per quanto riguarda la pratica, si stanno un po' muovendo per modificare le cose, però è ancora molto lasciato all'iniziativa personale. Quindi ovviamente uno quando poi si laurea, la prima cosa che deve fare è trovare una struttura in cui iniziare a lavorare sul campo, se non ha già trovato qualcosa prima di laurearsi. Ecco, un'altra cosa che appunto non le ho chiesto magari all'inizio è se durante l'università sono previsti comunque dei cosiddetti tirocini, cioè dei periodi in strutture esterne, perché a proposito di questo appunto che lei mi dice, cioè l'università dà una preparazione teorica, già durante c'è la possibilità di fare questo oppure proprio al termine, ecco, si comincia poi ad andare alla scoperta di quello che poi è il lavoro? Diciamo che alcuni tirocini sono previsti già durante l'iter di studi, sia all'interno dell'università sia in strutture convenzionate. Quando mi sono laureata io non erano ancora tantissime le ore di tirocinio, però si stanno muovendo al fine di aumentarle in modo da modificare il corso di studi e renderlo sempre più legato alla pratica. Comunque il consiglio che io posso dare è chi vuole intraprendere questa professione è appena può, insomma, di cominciare un po' a vedere come si lavora sul campo. Ad esempio appoggiandosi a strutture disposte ad accogliere uno studente di medicina veterinaria per anche solo vedere come si svolge l'attività clinica, di modo appunto a affiancare a quella che la teoria è importantissima per l'amor di Dio, anche insomma un po' di pratica, se non altro per imparare anche come gestire gli animali, perché ovviamente quello si impara quando si ha l'animale davanti, non davanti a un libro, insomma. Ecco, dottoressa, a proposito di questo, non so, in base alla sua esperienza, ecco, uscita dall'università, ecco, il primo approccio con il lavoro, non so, le difficoltà magari che ci sono state iniziali. Ma allora, devo dire che io sono stata molto fortunata, nel senso che ho trovato abbastanza rapidamente una struttura in cui andare a lavorare. E so che, soprattutto in certe regioni, ci sono molte difficoltà, perché purtroppo veterinari ce ne sono tanti, soprattutto che vogliono occuparsi della clinica, e purtroppo i posti di lavoro sono molto meno. Il consiglio che posso dare è non aver paura a spostarsi dalla propria zona di residenza e nei primi tempi accettare un po' quello che viene, cioè non pretendere subito di fare grossi orari di lavoro o insomma avere, parlando di cose concrete, uno stipendio elevatissimo, però cercare di farsi più esperienza possibile, cercare di magari specializzarsi anche in un settore particolare della clinica piuttosto che di altro, e poi pian piano riuscire a trovare i propri spazi, insomma. Certo, fare un po' la famosa gavetta, no? Cioè nel Precisamente, sì. Sì, questo non vuol dire lasciarsi sfruttare, farsi mettere piede in testa, però rendersi conto che ovviamente uno esce dall'università con una preparazione che è ampia però piuttosto generica, e quindi deve prima un po' riuscire a migliorarsi in questo prima di poter poi non so, anche aprire una propria struttura, per dire. Certo, dottoressa, io la ringrazio moltissimo per essere stata qui con noi a 12 minuti e per tutte le preziose informazioni. Di niente, si figuri. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi quindi sta pensando di intraprendere la carriera di veterinario, innanzitutto vi segnalo che in Veneto l'unica università che attiva corsi di laurea in questo ambito è l'Università degli Studi di Padova. Potete contattare il servizio orientamento al numero 049 8273 312 oppure scrivendo a orienta@unipd.it. A giugno e novembre 2013 sono state fissate la prima e la seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario. E per avere maggiori informazioni potete contattare il servizio formazione post lauream esami di stato dell'Università di Padova scrivendo a lauream@unipd.it oppure chiamando allo 049 8276 381 oppure 6382. Infine, per chi volesse maggiori informazioni sul mondo lavorativo in questo settore, vi segnalo il sito della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, www.fnovi.it, e il sito dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, www.anmvi.it. E per oggi è tutto, prima di salutarvi, anticipazione sul prossimo appuntamento dedicato alla professione del fotografo. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.